Sai su Radio Wombat, questa è Radio Wombat, 8 Hertz. Ed eccomi qua al nuovo appuntamento con 8 Hertz. Avete sentito un pezzo tratto da un film di Carpenter, il pezzo di Carpenter è dell'indimenticabile 1997 Fuga da New York, o il titolo originale Escape from New York. Appunto già se n'era parlato in qualche altra trasmissione di Carpenter, perché è anche un geniaccio della musica elettronica, composto appunto con synth. Abbiamo messo questo pezzo che è appunto tratto da un film, perché l'argomento della serata, ogni tanto ci sono gli argomenti, anzi quasi sempre, ma prima o poi finirà questa storia, perché non sono illimitato, è su appunto le colonne sonore, quindi non solo dei film ma anche delle serie che vengono trasmesse o sono state trasmesse nel grande schermo, anzi nel piccolo schermo, quello di casa, il grande schermo è quello cinematografico. Allora, qualche nozioncina che non è proprio di storia della musica, di storia del cinema, perché non voglio dilungarmi troppo, ma la colonna sonora in realtà sarebbe tutto quello che c'è di audio finale nella pellicola. Si chiama proprio colonna perché una volta nella pellicola, al lato dell'immagine, c'era proprio la traccia audio, quindi quando scorreva dava anche l'audio. Per cui è rimasta questa cosa che si chiama colonna sonora. Parleremo di colonna sonora in sensi vari, ovvero ci sono le colonne sonore che sono state create apposta per il film, che spesso sono, non sono proprio brani pop con ritornelli strofe, ma sono delle cose un po' più vicine alla classica, diciamo, ed altri brani di altri gruppi che non composero per la colonna sonora, ma che poi sono stati usati dal regista per fare da colonna sonora o in certi momenti dei film li potevate ascoltare, insomma. Per cui ci saranno un po' entrambe le cose, c'è cioè la Lost, ovvero l'original soundtrack, cioè quella composta per il film, e anche i pezzi che sono stati usati nei film. Continuiamo con un pezzo di prima era dell'81, il film era dell'81. Questo qui è sempre di un altro film che per la generazione dei quarantenni era una goduria quando erano più giovani. È tratto da I Guerrieri della Notte, oppure The Warriors, che era un film di Walter Hill. E questa è la sigla iniziale, quella di apertura del film, insomma. Mi piace pensare che magari c'è qualcuno che sta muovendosi col tram e sta ascoltando la radio in cuffia e durante gli spostamenti col tram si becca questa. Thank you. guerrieri, venite a giocare con noi. Lo dovevo dire. Mi sa perso. Send the word. Allora, ovviamente anche gli italiani sono stati famosissimi nel fare le colonne sonore, soprattutto negli anni 60 e 70, per commedie, gialli, thriller, insomma tutti questi generi qua che andavano una volta. Gli esempi sono veramente tantissimi. Morricone appunto è stato uno dei luminari praticamente. Comunque c'è stato un caso che anche i Goblin, il gruppo prog, praticamente ha fatto svariate colonne sonore. Quella che vi metto è appunto tratta da Dawn of the Dead, l'alba dei morti viventi, o zombie a seconda delle versioni. C'è stato un gran casino sui diritti, sulla parola zombie in quegli anni, li perse il povero George Romero che fece i film più interessanti sugli zombie nel senso sociopolitico proprio della cosa, e noi ce l'andiamo a ascoltare appunto i Goblin con Dawn of the non si chiama così, però comunque uno dei pezzi portanti del film, che è la versione italiana, tra l'altro è quella dove ci sono i Goblin, ma le versioni precedenti di Romero erano più lunghe o più corte a seconda dei vari usi, e avevano un'altra colonna sonora, avevano un montaggio diverso, ma risulta la versione quella italiana, cioè ovvero un po' tagliata, ma non nelle parti splatter, ma a livello di montaggio e di alcune parti da Dario Argento, è quella che tutti i critici preferiscono. Dico a loro, comunque è bella, è uno dei miei film preferiti, e abbiate paura. altro compositore di colonne sonore era Pietro Piccioni. Non era certo quello più grosso, infatti mi ricordo che fu stato chiamato per il film Il caso Mattei di Francesco Rosi del 72 per fare la colonna sonora. Non avevano soldi sufficienti per chiamare l'altro che avevo citato prima. Ennio Morricone, mi dicono dalla regia laggiù in fondo. E tra l'altro la colonna sonora del caso Mattei è bellissima. Proprio l'ingresso del film è una base quasi techno, super elettronica, poi va sul jazz, su altri generi. Così. Non sono riuscito a trovarla, la colonna sonora, mi dispiace, ma non sono riuscito. E quindi però metto un'altra cosa di Piccioni, sempre molto interessante, che è stata scritta per un film di Elio Petri del 65 che si chiama La decima vittima. La decima vittima è tratta da un libro di Arthur Shackley, che è uno scrittore di fantascienza completamente fuori di testa degli anni 60, 50, 60, 70, insomma così. Oltre alla psichedelia, comunque mischiava un po' come Philip Dick le sue storie un po' alla società e alla politica, e prevedeva a suo modo alcune cose. La decima vittima, questo pezzo, o tutta la colonna sonora, insomma, è stata cantata anche da Mina, per cui i gorgheggi che sentite sono suoi. Si cambia un po' stile, non è più quel blues cadenzato a suon di campane che emula un po' i passi degli zombie, ma qui c'è tutta una storia di uccisioni, di gioco, di vittorie sulla pelle degli altri e basta, vai. Thank you. realtà quel grande Pietro Piccioni cosa ti sapeva combinare. Andando avanti, legandosi a lui, a Francesco Rosi, scusate, a Elio Petri, che era il regista della decima vittima, il libro della settima vittima di Shakley. Vedetemi il film e leggetevi il libro, che sono tutti entrambi spassosissimi. Metto un pezzo di un gruppo italiano di ora che si chiamano Fazz Orchestra, che non fanno colonne sonore, ma sfruttano le colonne sonore dei vecchi film per ricreare un mondo tutto loro, e sonorità anche tutte loro molto particolari. Il pezzo in questione è tratto dall'ultimo disco Uccideteli tutti, Dio riconoscerà i suoi, e si chiama Todomodo, come il film appunto di Elio Petri con Mastroianni. Mastroianni era anche l'attore principale della decima vittima del film, del brano che abbiamo sentito prima. E quindi, se non li conoscete, ascoltateli, perché sono molto particolari, molto preparati e fanno dei grandissimi live. Thank you. avete il potere. E non ponete limiti al vostro potere e al peccato. Torniamo un po' alla fantascienza, i prossimi pezzi più o meno sono tutti tratti da film o serie che sono appunto su questo genere cinematografico, appunto con una serie che è uscita quest'anno e ho trovato molto carina, che si chiama Stranger Things. È un po' alla Goonies, per i nostalgici degli anni '80, aveva proprio una colonna sonora con alcuni brani storici di quel periodo e si svolgeva tra l'altro anche negli anni '80. Non vi sto a raccontare niente, praticamente ascolterete il pezzo di apertura che è stato fatto come tutta la colonna sonora originale. Quindi come original soundtrack, è stata fatta con dei synth un po' tra la synthwave minimale e qualcos'altro che ci troverete, insomma. Buon ascolto. Thank you. brano era breve, come la sigla appunto della serie. Il pezzo successivo è di Trent Reznor, che ha collaborato tantissimo con David Fincher, regista americano molto conosciuto per Seven e altri film che ora non mi vengono in mente, ma ce n'ha tanti, tra cui anche Social Network. Il pezzo in questione appunto è tratto dalla original soundtrack di quel film, insieme ad Atticus Ross, la ragazza. Non mi veniva Sorzu Citta, che è il contrario di Atticus Ross. E vabbè, insomma, non posso dire altro. E comunque, aveva anni prima già creato una sorta di sonorità simile a base di synthwave. Questo pezzo è molto carino, tra la colonna sonora non è il pezzo portante, ma l'ho trovato molto bello, si chiama Painted Sun in Abstract. La colonna sonora è del 2010, così come il film, che ripeto è The Social Network, il film che appunto parla della scoperta, della divulgazione di Facebook, della sua scoperta da parte del proprietario di Facebook, che ai tempi, mentre studiava, ha creato tutto sto gran casino. Quanto è stato importante George Carpenter per le colonne sonore, almeno sulla fantascienza, ma anche sull'horror, ricordando anche Halloween, appunto, che la sua colonna sonora fu veramente epocale. Trent Reznor, molti anni prima, aveva già collaborato con Fincher, forse credo sia stata la sua prima collaborazione. E mise una sua traccia proprio nell'apertura di la traccia era dei Nine Inch Nails, ma che era il suo gruppo portante, di Seven, appunto, quel thriller horror giallo pazzesco che tutti si ricorderanno, a meno chi l'ha visto. Il pezzo in questione era un remix di Closer, ma siccome io mi diverto a cercare le cose, mi piacciono i coil, unisco entrambe le situazioni e praticamente questo che ascolterete è il remix di Closer, remixato dai coil che si chiama Recall. L'ho trovato bellissimo quando l'ho ascoltato, anche tutto il disco di remix dei coil, dei Nine Inch Nails, è meraviglioso. Anche Trent Reznor collaborò in un album come produzione ai Coil, e questo è un po' quello che succede mischiando le loro menti, ecco. Thank you. You let me complicate you. E concludendo un po' il discorso su Trent Reznor, per cui insomma si capisce che le cose migliori che secondo me sta facendo e ha fatto negli ultimi anni riguardano appunto le colonne sonore dei film. È uscita una serie da poco che si chiama Westworld, è praticamente tratto da un film degli anni 70 che si chiama Westworld, in italiano Un mondo di robot. E la serie l'ho trovata molto bella e anche la colonna sonora non è niente male. E praticamente le cose più belle sono le cover di alcuni brani pop, tra cui ci sono anche i radio, rifatte con il pianoforte. Nella serie si vede un pianoforte automatico perché si svolge nel Far West. E però il pezzo che metto invece è fatto con gli archi, e si sente durante uno degli episodi, appunto era un pezzo dei Nine Inch Nails, si chiama Something I Can Never Have, l'ho trovato molto bello, non è fatto col pianoforte ma è fatto da un quartetto che si chiama Vitamin String Quartet e l'ho trovata geniale. Buon ascolto. Thank you. Questa è un'altra stupefacente puntata di 8 Hertz che a sto giro è sulle colonne sonore nel cinema e nelle serie. E, ci ascoltate tanto in podcast, sarebbe bello anche che ci ascoltate tanto anche durante la diretta, insomma, che è sempre più emozionante, secondo me. Poi, oh, insomma, non è che ci siano tante radio che fanno queste cose. E nel mentre vi ricordo appunto un po' di social di Wombat. Wombat è sempre con la W in tutto ciò. Il sito è wombat.noblogs.org, ma questo lo sapete, se no non stavate ascoltando. Twitter è twitter.com/radiowombatfi. Facebook è facebook.com/radio-wombat-firenze. E la mail, ci piacerebbe che ci scriveste, ogni tanto qualcuno lo fa e è stato anche premiato, ha vinto dei premi, e si chiama postawombat@insiberia.net, per cui insomma se volete vincere dei premi scriveteci. Finita la parte un po' sulla fantascienza, riniziamo con questo che non ha bisogno di introduzioni. Thank you. parlare di Twin Peaks, della sua colonna sonora è troppo semplice. Questa era Audrey's Dance di Angelo Badalamenti, Audrey Dance. Però parliamo invece di quello che potrebbe esserci nel nuovo Twin Peaks, che uscirà a quanto pare nel 2017. E c'è questa cantautrice che si chiama Christa Bell, che ha collaborato con David Lynch. Lynch le ha fatto le musiche, lei insomma ci ha suonato e cantato, e probabilmente sarà anche presente anche come attrice nello staff del nuovo Twin Peaks. Intanto ascoltiamoci un pezzo che appunto è stato fatto insieme a Lynch, che si chiama Swing With Me, di Christa Bell, e il disco si chiama This Train e secondo me è meraviglioso. Oh, listen now. I wish this night would never end. E rimaniamo nel continente americano e le sue sonorità tra il country, il blues o entrambi i generi, anzi quella era il western e il country. Il canto torale, e quindi sempre legato a questo pezzo, vi volevo far sentire Lera Lynn, che è una giovane cantautrice che ha sfondato praticamente facendo alcuni pezzi per la colonna sonora di True Detective, la seconda stagione, nelle scene dove ci sono i due tra i quattro protagonisti al bar, in quel localaccio c'è sempre lei che suona delle cose abbastanza tristi, e noi ce ne andiamo a ascoltare una, spero di intristirvi a tutti. Si chiama My Least Favorite Life, Lera Lynn. E c'è anche un'altra folk songwriter, ma italiana, che conosciamo, e si chiama Francesca Morello, in arte Riff, che secondo me ci sta bene in questa parte di programma folk, e anche lei ti fa immaginare scenari un po' da da America e da film, molto cinematografica. Per cui il disco è uscito da poco, il suo disco di ora. E andiamo a sentirci il primo pezzo che si chiama Toothed Black Worm. Secondo me è molto molto interessante, ascoltatevelo. Empty, yeah. È stato fatto un picnic hanging rock che è finito in modo inspiegabile. E sotto il sole, in quelle rocce, si sentiva questo flauto andino. E questo era Picnic Hanging Rock, una delle melodie portanti del film. Il pezzo è molto lungo, ma era la versione, secondo me, più bella di George Zamfir, che non so bene chi sia, ma comunque negli anni 70 si cimentava con questo tipo di sonorità. Ci vedo bene anche il pezzo prossimo legato, che è un altro gruppo, che era un gruppo krautrock, anche se di rock a poco, ma molto di world music, di ambient, che si chiamano Popol Vuh, e hanno fatto anche alcune colonne sonore, come soprattutto i film di Herzog, come Aguirre, Furore di Dio e Nosferatu. E noi ci andiamo a sentire un brano tratto appunto da Nosferatu di Herzog, e loro sono i Popol Vuh. Andiamo verso derive magiche e misteriose. Potevano mancare i Popol Vuh, così come non mancano i Coil, che ormai vi sto abituando ad ascoltare. E prima abbiamo sentito un pezzo remixato dai Coil, dei Nine Inch Nails, però dovete sapere che Anche i Coil si sono cimentati nella composizione di qualche colonna sonora. Erano molto legati al regista Derek Jarman. Infatti fecero proprio una cosa insieme che non si può proprio definire un film con una storia ben precisa, ma sono sonetti di Shakespeare musicati e declamati da, non, ora non mi viene in mente chi li declama, ma un'attrice inglese conosciuta, su queste immagini di Derek Jarman che si sovrappongono. Prima ancora con lui avevamo fatto un paio di pezzi per la colonna sonora di Blue, che era il film più arduo di Jarman e continua ad essere uno dei film sperimentali più folli della storia del cinema, perché praticamente è solo una tonalità di blu. Per cui lo spettatore, a seconda dell'audio del film e delle ombre delle persone che si muovevano al cinema, riuscivano a crearsi ognuno una storia personale e ad avere anche delle sensazioni particolari. Ma quello che ascolterete stasera, anzi quasi stanotte, è la colonna sonora che fecero. Che scrissero per Hellraiser di Clive Barker. Il primo film è dello scrittore stesso. È un bel film, non è un capolavoro perché la colonna sonora non è dei Coil, perché i Coil fecero la colonna sonora, ma poi a livello di produzione venne scartata per un'altra, che ovviamente è più brutta. E qui ci sentiamo un pezzo di questa colonna sonora che non è mai stata accettata per il film, ma uscì un vinile e poi ristampe su CD o in best of vari. Il Box Dam è del 1987, il box sarebbe la scatolina, quella che chi l'apre poi passa verso una dimensione di sangue, punizione, tortura e godimento. Thank you. E insomma, se vi stavate ascoltando da soli nella vostra cameretta al buio questo pezzo, sicuramente vi sarà arrivato. Sarebbe bello fare una monografia sui Coil, ma credo che non basterebbe una puntata, poi è molto difficile e impegnativa. Però, boh, sarebbe bello farla, prima o poi forse la farò anche, a seconda di come mi gira, se c'è qualcosa che vibra. Quando ho deciso di fare la puntata sulle colonne sonore è perché avevo in mente un film che di quello che ne sto parlando ora, che si chiama Mulberry Street, che è un film di Jim Meakey del 2006, praticamente un horror che si svolge in un palazzo di Manhattan e poi succede tipo una sorta di apocalisse che dei rattoni mordono gli umani. Gli umani diventano cattivi, diventano furiosi, un po' come gli zombie. Un po' come gli zombie. Alla fine del film, c'è cioè la carrellata finale su cui scorrono i titoli di coda, la carrellata su appunto questi palazzi suburbani di Manhattan e parte un pezzo degli Animal Collective che si chiama Lock Raven, e che adesso vi farò sentire, secondo me ci stava benissimo. l'atmosfera, lancio l'ultimo pezzo di questa puntata di 8 Hz, di un altro film a tema apocalittico che è 28 giorni dopo, 28 years later, di Danny Boyle, conosciutissimo per Trainspotting, ma ha fatto anche degli altri bei film come Sunshine, che è di fantascienza. Il pezzo in questione è nei primi 20 minuti di film, quando il protagonista scopre di essere solo in mezzo a delle persone che persone non sono più, molto cattive, imbestialite, rabbiose, perché hanno, vabbè, insomma, poi non vi sto a spiegare la trama. E il pezzo è dei Godspeed You, Black Emperor, e si chiama East Hastings, è tratto da un disco impronunciabile, non le riesco a pronunciare, non lo dico. Quindi buonanotte, ci risentiamo settimana prossima, credo. Buonanotte. Thank you.